L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Oggi andiamo in trasferta. Per arrivare a Crescentino ci sono molte strade. Serpeggiano attraverso la pianura padana come uno se la immagina. Campi, risaie, pioppeti, sullo sfondo qualche collina e ancor più in là le Alpi. Una di quelle strade passa per Trino. Poco dopo Trino c'è un'indicazione, centrale elettrica Enrico Fermi. Ecco perché questo nome vi suona bene. A Trino sorgeva, ma sorge ancora, una delle poche centrali nucleari italiane, fermata dal referendum del 1987. Sembra però che qui abbiano un po' la fissa dell'energia. Nel 1998, sempre nel comune di Trino, fu inaugurata la centrale Galileo Ferraris, la prima centrale elettrica Enel a ciclo combinato gas-vapore. E poco distante, a Livorno Ferraris, dal 2008 c'è anche la centrale, sempre a ciclo combinato, del gruppo tedesco E.ON. Lungo la strada, una teoria di capannoni abbandonati da molti anni testimonia di un passato industriale florido e di un presente molto più incerto. Nemmeno i campi hanno l'aria di essere in buona salute, mancano infatti di quel rigore che segnala la produttività. Un anziano sorride quando gli chiedo dove sia l'ex area Texid. Lo sa bene dov'è, ma doveva venire domenica, mi ammonisce. C'era una gran presentazione. Anche oggi c'è, gli assicuro. Oggi, infatti, si posa la prima pietra di un altro impianto, anche questo legato al mondo delle energie. Certo che ce ne sarà da fare a Crescentino. L'impianto della Italian Bioproducts, per ora, non è che una vecchia struttura della Texid. Certo, è la più salda in mezzo a tante altre cadenti e, mi dice il sindaco di Crescentino Marinella Venegoni, è anche l'unica che non necessiti di una profonda bonifica. Qui è andata bene perché era una zona che non era inquinata. Adesso nel resto dell'area sono 500.000 metri quadri. È una delle aree dismesse più grandi del nord Italia. Qui non era inquinato e quindi si può andare avanti con questo progetto. La bonifica prosegue nel resto. La folla è incredibile. Carabinieri e agenti in borghese scrutano gli ospiti e chiedono credenziali. Se ci fosse il mio anziano capirebbe che non ho sbagliato giorno. L'inaugurazione dell'impianto della Mossi e Ghisolfi, il primo al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, ha un gran successo. Ci sono gli invitati ufficiali, il vicepresidente della regione Piemonte, Cavallera, il segretario della Commissione Ambiente del Senato, Fluttero, il presidente di Legambiente, Cogliati Dezza, e le autorità del circondario. Ma ci sono anche tanti ospiti, un gruppo di cinesi, saranno quelli della Far Eastern Group di Taiwan, leggo, e poi rappresentanti di Coca-Cola, Eni, Shell, Total, Novamont e perfino Slow Food. La sindaco, Marinella Venegoni, che è anche un critico musicale per il quotidiano La Stampa, guarda tutto questo movimento con un misto di apprensione e speranza. Prima c'era la fonderia più grande che ci sia stata in Europa della Texid. È stata qui a lungo dal 1973 fino a 2 anni fa, quando ha chiuso perché si era esaurito il ciclo della fabbrica. E con la chiusura della Texid hanno sistemato delle persone, hanno sistemato operai, però l'economia della città è andata in declino. Poi c'è stata la crisi grande, abbiamo la fila dei disoccupati in comune. In questo momento nero è arrivata questa opportunità. In questo momento nero è arrivata questa opportunità che abbiamo valutato con grande attenzione, perché bisognava un po' capire che cosa significava, no? La piccola comunità, poi il problema anche della salute, della sicurezza, l'aria. Quindi abbiamo indagato su tutti questi temi e alla fine abbiamo capito che si poteva coniugare la possibilità di una vita nuova con la sicurezza e la salute dei cittadini. E nello spazio di un anno quindi dovrebbero esserci nuovi posti di lavoro. So che entro la fine del 2012 dovrebbe finire la costruzione dell'impianto e quindi ci sarà spazio per un centinaio di persone. Quindi entro un anno, e auguriamoci che tutto fili liscio, qui troveranno lavoro un centinaio di persone e la sindaco si augura che i suoi concittadini siano all'altezza dei requisiti. Ma cosa faranno qui? Parteciperanno alla produzione di bioetanolo, e cioè etanolo, un alcol, ricavato per fermentazione delle biomasse, che a Crescentino saranno canna comune di fosso e biomasse lignocellulosiche, il che significa un po' tutto, dalle potature agli scarti di produzioni agricole. Tutto, assicurano, in filiera locale. È il fatto che non siano biomasse destinate al consumo alimentare però a fare la differenza, perché da anni si discute sul conflitto tra la destinazione alimentare e quella energetica di produzioni come il mais e la canna da zucchero. L'anziano presidente del gruppo Mossi e Ghisolfi, il cavaliere del lavoro Vittorio Ghisolfi, sorride a tutti. È un traguardo e un nuovo inizio, dice affidandosi ai comunicati stampa. Oggi, a esporsi, a parlare, è il figlio, Guido. Sì, la tecnologia è per così dire onnivora, può utilizzare tante biomasse differenti e in maniera indifferente, per cui una settimana si può usare una biomassa, la settimana dopo se ne può usare un'altra. Il risultato di questa applicazione è che si può prendere quello che è presente sul territorio senza bisogno di cambiare la vocazione del territorio, per cui gli agricoltori che fanno riso, mais e grano continueranno a farlo e potranno ottenere un reddito aggiuntivo dai terreni marginali che in questo momento non gli danno reddito di nessun genere. Questo impianto inizialmente produrrà tra 40 e 50 mila tonnellate di etanolo, che sono grosso modo il 10% della domanda attuale italiana, che viene soddisfatta al 100% dalle importazioni brasiliane, e saranno il 5% della domanda italiana nel 2020. Dall'altra parte, questo impianto richiederà circa un rapporto 4 a 1 tra biomassa e etanolo, quindi a 40.000 tonnellate saranno 160.000 tonnellate di biomassa. Ma c'è richiesta di etanolo in Italia e per fare che cosa? Ora come ora si usa per la preparazione del ETBE, un additivo per le benzine che in sede di combustione comporta una riduzione di monossido di carbonio e idrocarburi incombusti stimabile intorno al 10-15%. Nella benzina che compriamo oggi c'è già un 2-3% di etanolo per litro, quindi. In futuro, però, l'Europa ci chiede di arrivare al 10% di etanolo, come accade in Stati Uniti e Brasile, e questo sarà fatto aggiungendo direttamente etanolo e non più ETBE. Così si ridurranno i consumi petroliferi, abbattendo le emissioni di CO2. Quando arriveranno anche da noi, poi, potremo anche marciare solo a etanolo, con le auto flexi-fuel, che possono usare sia etanolo sia benzina. Dario Giordano, direttore ricerca, tecnologia e sviluppo della Mossi e Ghisolfi. Cioè, l'Italia consuma circa 12 milioni di tonnellate di benzina. Per fare il 10%, che poi è in potere calorifico, servono 1,5 milioni di tonnellate di etanolo. Crescentino fa 40.000 tonnellate. Cioè, quindi bisognerebbe andare a quella migliore ipotesi di cui si parlava prima in conferenza. Bisogna fare una 10-15 impianti come quello di Crescentino, perché gli impianti devono essere piccoli e localizzati per utilizzare le biomasse locali, no? E quindi sostanzialmente si possono creare tante crescentine in Italia che danno anche un profitto, una linfa diversa all'agricoltura locale. Per ora, ci dice Giordano, l'etanolo italiano lo si fa solo in Sicilia, in un'azienda che usa i propri scarti vitivinicoli per farlo. Il resto lo compriamo dall'estero. Assurdo, pensiamo, in termini di costi e di emissioni. Ma qui in Piemonte, ne abbiamo già parlato all'altro pianeta, ci sono oltre 200 domande per la realizzazione di centrali a biomassa per produrre energia, non etanolo. Non è che entreranno in conflitto con l'impianto di Crescentino? Diciamo che è una cosa diversa, perché in realtà l'impianto che produce etanolo prende la pianta e utilizza al meglio le tre frazioni della pianta, cioè le frazioni zuccherine, cellulosa e micellulosa, vengono trasformate in un carburante liquido. Perché la grossa richiesta che noi abbiamo, la grossa dipendenza dal petrolio, è nei trasporti, dove necessariamente occorre avere dei carburanti liquidi, altrimenti la distribuzione è molto complicata. E poi teniamo la parte della lignina con cui generiamo la quantità di energia che ci serve per far funzionare l'impianto. Quindi diciamo non è che siamo in competizione, perché la tipologia di biomassa e la tipologia di uso delle biomasse è diversa e anche l'utilizzo finale è diverso e anche più remunerativo. Noi paghiamo molto di più un litro di benzina che non un kilowattora elettrico. Ma non di solo combustibile vivrà la Italian Bioproducts. Quando uno ha lo zucchero può fermentare etanolo, e l'etanolo poi può essere trasformato in etilene e quindi diventare plastica. Questa è una prima via. Ma anche quando uno ha lo zucchero, può fermentare questi zuccheri a degli intermedi chimici che poi possono essere utilizzati nell'industria delle materie plastiche. Cioè sostanzialmente per fermentazione degli zuccheri si può fare il butadiene e poi si fa la gomma per i pneumatici, oppure si può produrre butandiolo e si fanno i sacchetti tipo Novamont. Ecco, quindi è lo zucchero che può essere poi fermentato a tanti intermedi chimici. Ed ecco spiegato perché a questa presentazione c'è anche la Coca-Cola, ad esempio. Il bioetanolo di seconda generazione è un risultato della ricerca italiana. Ci tengono tutti a precisarlo. L'hanno ottenuto una cinquantina di ricercatori delle nostre università che hanno messo a frutto i 120 milioni spesi in questo progetto. 108 della Mossi e Ghisolfi, 12 della Regione Piemonte, che però ha dato anche ospitalità ai ricercatori. E, aggiunge Guido Ghisolfi, è anche merito della cocciutaggine di certi ambientalisti che gli hanno impedito di aprire un impianto che sarebbe stato di prima generazione a Tortona. Doveva cominciare a essere costruito 2 anni fa a Tortona. Devo dire in questo caso che io devo spezzare una lancia per la forte opposizione che gli ambientalisti hanno fatto nei confronti di un impianto che inizialmente era nato con l'idea di essere alimentato a mais. Noi dall'inizio abbiamo spiegato che stavamo facendo questa ricerca e che quindi avremmo convertito l'impianto da mais a biomassa non appena possibile. Non è stato piacevole dover ritardare la costruzione di questo impianto, però io pubblicamente ringrazio spesso gli ambientalisti per avermi fatto ravvedere e avermi aiutato a capire che dal punto di vista economico e dal punto di vista della sostenibilità un impianto da biomassa non food sarebbe stato meglio. Il motivo reale per cui l'impianto non è stato costruito a Tortona da biomassa piuttosto che da mais è che il terreno che era stato selezionato è stato considerato troppo vicino a una polveriera della Nobles, per cui non è stato dato il permesso da parte della conferenza di servizi della provincia di Alessandria. Fuori fa un caldo padano, pesante e umido. La sindaca ha indossato la fascia tricolore e, affiancata da 2 generazioni di Ghisolfi, il cavaliere Vittorio e l'ingegnere Guido, si prepara a tagliare il nastro a favore di telecamera. Dico che questa cosa alla quale abbiamo tanto lavorato dopo tanti mesi, dopo tanta fatica di tutti, dopo tante discussioni, alla fine stiamo vedendo la luce. È una cosa molto importante per la nostra città, che ha bisogno di risorse e di lavoro. E dico a tutti, anche a tutti i signori ospiti che vengono da fuori, che questa mia comunità crescentinese si è dimostrata, come anche l'ingegner Ghisolfi ha ribadito, si è dimostrata veloce, rapida ed efficiente, e quindi approfittate della nostra efficienza finché c'è, perché poi non si sa mai. E chiude con entusiasmo. Che vi porti fortuna, dice, a voi e all'Italia, che ne ha tanto bisogno. Che vi porti fortuna a voi, all'Italia che ne ha tanto bisogno. Tra un anno vedremo se l'impianto aprirà e come andranno le cose. L'altro pianeta. Ed eccoci di nuovo insieme dopo la pausa per il traffico e dopo il nostro viaggio a Crescentino, provincia di Vercelli, dove abbiamo assistito alla posa della prima pietra di un impianto che produrrà bioetanolo di seconda generazione. Potrete riascoltare tutto sul nostro sito internet radio24.it. Adesso invece è il momento dell'intervista di Cristina Carpinelli. Adolfo Maria Pérez Esquivel è nato nel 1931 a Buenos Aires. È un pacifista, forse il massimo rappresentante tra i pacifisti. Nel 1980 ha vinto il premio Nobel per la pace per le denunce contro gli abusi della dittatura militare argentina negli anni 70. Dagli anni 80 è impegnato in progetti di recupero delle minoranze, degli emarginati e degli indigeni. Il suo è un percorso di grande impegno sui temi della terra. Lo abbiamo incontrato tempo fa. La sua analisi del mondo è impietosa, ma lascia anche molte porte aperte alla speranza. Mi storia è come la di muchos. La mia storia è come quella di molti giovani in America Latina, con le stesse difficoltà economiche. Dovevo lavorare e studiare di notte, ma non ho mai perso l'allegria. La cosa più importante durante la gioventù resta comunque l'impegno sociale, segna la vita, sai qual è la tua origine. Io ho cominciato a lavorare in comunità gestite dalla Chiesa facendo lavori semplici e ho cominciato a capire e condividere le necessità di molti. Nel tempo è aumentato il mio impegno, ho iniziato a lavorare in zone sempre più povere, più emarginate. Così nel tempo ho cominciato ad avere risposte, ma ancora non sapevo niente dell'America Latina. Ho imparato qualcosa viaggiando. Quando mi sono ritrovato davanti alla miseria, quando ho visto quelle che chiamiamo favelas, solo allora ho capito. E mi è nato un senso di ribellione, di rabbia. Volevo lottare per cambiare questa situazione. E alla fine, conoscendo gente meravigliosa, ho capito una cosa importante, che non esiste spiritualità senza impegno sociale. Come fa ad essere così forte senza esitazioni? Come fa ad avere ancora tanta fiducia nell'uomo dopo tutto quello che l'uomo le ha fatto? Il tempo è trascorso. So che è difficile da raccontare, ma che cosa è accaduto? Lo può dire ai nostri ascoltatori? Cosa successe a lei e a tanti altri giovani in Argentina? Cosa è successo? Sono passato dal carcere, alle torture, al volo della morte. Era il 5 maggio del 1977. Ero convinto che mi avrebbero gettato vivo in mare, come fecero con tanti prigionieri. Ma successe qualcosa che impedì che mi gettassero. Io in qualche modo sono sopravvissuto grazie alla solidarietà internazionale. Questa è la risposta alla sua domanda. E così, da quando mi sono salvato, ho continuato a lavorare. E quando è arrivato il giorno in cui mi hanno conferito il Nobel, io l'ho preso in nome di tutti i popoli dell'America Latina. Il premio Nobel che lo assumo in nome dei popoli dell'America Latina. E qual è la situazione attuale in America Latina? In molti paesi si continuano a violare i diritti umani. Il caso concreto di Colombia, Perù, Guatemala. Senza dubbio, tutti questi paesi si mostrano come democrazie. Io credo che il problema più grosso oggi sia proprio questo. Manca la chiarezza. Per noi la lotta contro la dittatura era dura, molto pericolosa, però era chiara. Noi sapevamo chi era il nemico, da che parte stava. Oggi non sappiamo da che parte stia il nemico. E questa confusione in America Latina è fortissima. E non ci sono formule per risolvere il problema, che non è un problema economico, è un problema politico. La dittatura ha ucciso tantissima gente, ma ora però la gente viene uccisa dalla fame, dalla miseria, dall'esclusione sociale. Signore Schivel, lei è molto impegnato come pacifista anche per la tutela dell'ambiente, che è, quando si parla di America Latina, la foresta amazzonica, quindi una sorta di luogo simbolico. L'uomo, nonostante tutto, sta continuando a distruggerla questa foresta e con la foresta amazzonica stanno morendo gli animali e anche le persone che vivono all'interno. Cosa si può fare? Qual è la sua analisi a proposito? Noi stiamo lavorando con gli indigeni, con la gente. Sembra banale, ma la prima cosa è capire chi siamo e cosa chiediamo. Un mio vecchio amico un giorno mi disse che i suoi nonni gli insegnarono una cosa che neanche tu devi mai dimenticare. Se non sai dove stai andando, torna indietro per sapere da dove vieni. Perché se non sai da dove vieni, qual è la tua identità, le tue radici? Non partire. No, perché se non sai da dove vieni, qual è tua identità, tu raíces, nos perdemos. E dopo l'intervista di Cristina Carpinelli andiamo all'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che recita: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Microfono a Marco Carminati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo in collegamento oggi la presidente del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, Ilaria Borletti Buitoni. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, voi siete sempre molto molto al lavoro, avete fatto questa grande giornata di primavera, avete fatto l'iniziativa dei luoghi del cuore e inaugurerete tra qualche giorno un nuovo sito del FAI a Venezia, sotto i portici di Piazza San Marco, il negozio Olivetti. Insomma, il vostro lavoro è salvaguardare, guardare l'Italia, osservare visitare l'Italia, studiare l'Italia. Ma io vorrei far riferimento proprio all'iniziativa I Luoghi del Cuore, perché vi offre il polso davvero di quello che gli italiani sentono del loro paese. E so che lei vuole portarci in una città piccola che non è di solito nelle grandi cronache culturali, che è la città di Novara, perché lì si trova un luogo del cuore particolarmente segnalato dagli abitanti. Di che cosa si tratta, Presidente? Ma è questa casa De Santi Bossi, che è una casa che era stata costruita da Luigi De Santis nel 1859, che è proprio nel cuore di Novara, perché a pochi passi dal Duomo. È una casa elegante, una casa borghese, con una grande struttura rettangolare e un bellissimo scalone, anche delle decorazioni pittoriche di un certo pregio. Ma quello che è interessante è che questa casa è stata segnalata da ben 27.000 cittadini di Novara, perché è un monumento proprio identitario della città di Novara. Quindi, essendo purtroppo una casa in uno stato di disagio terribile, questo ha mosso tutto un interesse anche istituzionale per cercare di recuperarla. Ecco, appunto, e che cosa si intende fare, visto che i cittadini l'hanno segnalata con così grande attenzione all'opinione pubblica? Ma intanto attualmente questa casa è di proprietà del comune, che evidentemente, vista la pochissima possibilità che i comuni oggi hanno in Italia di avere mezzi ulteriori alle necessità, diciamo, ordinarie, non può restaurarla. Però intanto si è mosso per fare un piano di recupero, un vero e proprio progetto di recupero, stabilendo anche quello che è il valore necessario, che mi pare sia intorno a 13 milioni di euro. Poi la cosa abbastanza affascinante è che attorno a questa casa si è creato un comitato d'amore, come viene chiamato, che è composto da architetti, da persone che possono essere direttamente coinvolte per il progetto di restauro e anche per una riapertura domani che la valorizzi con delle manifestazioni culturali. Cioè è come se questo luogo fosse diventato, in una città che, come giustamente lei ha detto, non è famosa per le sue bellezze d'arte, fosse diventato però il simbolo di un riscatto culturale e quindi anche proprio di un riscatto identitario di Novara. Certo, ecco, io ho detto che non è famosa, ma forse mi sono sbagliato, perché in realtà sono proprio queste piccole città che magari noi non conosciamo a sufficienza a rivelare, appunto, proprio nella sensibilità dei cittadini, non solo monumenti importanti, perché Novara ha dei monumenti importanti medievali e anche dell'Ottocento, e proprio attraverso questa vostra campagna dei luoghi del fuori emergono questi luoghi che in realtà poi, una volta restaurati, una volta valorizzati, diventano addirittura dei fulcri d'attenzione e dei luoghi di aggregazione. Ecco, questo progetto che destinazione d'uso potrebbe avere, vista l'esperienza che il FAI ha proprio in questo settore? Ma guardi, io penso che sia, come dire, un luogo che può essere valorizzato per eventi culturali, per manifestazioni. Quantunque, cito sempre l'esempio di un paese vicino, che è la Svizzera. Se lei pensa che Locarno era una città che non aveva una sua vocazione, altro che essere molto carina sul lago, e a un certo punto le istituzioni pubbliche, private, la cittadinanza hanno deciso di investire per farne uno dei centri in Europa, con Vienna, Salisburgo e Berlino, più importanti per la musica classica, e nel giro di pochi anni l'hanno fatto. Ho citato questo esempio per dire che queste città della dimensione di Novara devono sforzarsi di trovare una vocazione che sia specifica e che possa permettere di attrarre a Novara un pubblico che non potrebbe che andare lì per incontrare questa vocazione. E mi sembra che avere uno spazio bello come quello che questa casa restaurata potrebbe significare è un modo anche per partire su una riflessione di questo genere. Lei con queste parole ci indica proprio che voi del FAI non solo vi prendete cura di singoli monumenti, di angoli d'Italia, ma avete accumulato negli anni una tale esperienza anche per quello che riguarda la gestione futura e la politica di gestione, una buona politica di gestione che viene dalla vostra esperienza diretta, a contatto con i cittadini, a contatto con i problemi della gestione del patrimonio artistico italiano, come se fosse appunto quasi una sovrintendenza. Bene, io la ringrazio, Presidente, e speriamo di averla prestissimo con noi, e ringrazio tutti gli ascoltatori per l'attenzione. Grazie a tutti per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci vi ricordo l'altropianeta@radio24.it oppure direttamente il mio indirizzo di posta elettronica laura.bettini@radio24.it. Buon proseguimento d'ascolto.